2024 di Enrico Pagliarini. Puntata di fine luglio. In piena estate torna 2024 con una nuova puntata e questo è il programma di tecnologia di Radio 24. Io sono Enrico Pagliarini, il nostro indirizzo di posta elettronica 2024, quindi 2024, @radio24.it. Beh, sicuramente la notizia più importante di questa settimana, anche visti i commenti che poi sono seguiti alla notizia, è relativa alla, diciamo, fine della storia di Yahoo, che è stata acquisita dopo che se ne è parlato per mesi, diciamo che da febbraio che si discuteva di una acquisizione, di una vendita di Yahoo, è finita nell'orbita di Verizon. Allora, Yahoo è nata è nato, dipende dai punti di vista, nel 1994 non si chiamava Yahoo all'epoca, si chiamava Jerry and Davis Guide to the World Wide Web, cioè la guida di Jerry e David al World Wide Web, dai nomi dei due studenti della Stanford University che hanno fondato questo chiamiamolo motore di ricerca, questo sito internet, Jerry Yang e David Filo, che dopo un anno dalla fondazione di questa guida al World Wide Web, il 18 gennaio 1995, registrarono il dominio yahoo.com. Beh, siamo in un mondo dove non esisteva nemmeno l'ADSL, c'era il modem con la linea telefonica, quindi internet era sicuramente un'altra cosa, era una directory che ci orientava nel mondo di internet. Ora Yahoo verrà acquisito da Verizon per 4,8 miliardi di dollari e verrà integrato con AOL, anche questo grande mitico nome della internet, America Online. Poi nacquero tanti altri siti fotocopia, Italia Online tra gli altri. Verizon ha comprato AOL lo scorso anno per 4,4 miliardi di dollari. Tutto verrà integrato in un unico gruppo. Il brand di Yahoo dovrebbe scomparire, probabilmente non scompariranno i nomi dei servizi, cioè rimarrà la mail yahoo.com, yahoo.it, i servizi di finanza, ad esempio Flickr, tutti gli altri servizi che fanno capo all'orbita di Yahoo. Allora, perché Verizon, che è una società di telecomunicazioni come potrebbe essere Vodafone, Telecom, eccetera, eccetera, vuole acquistare, perché ha annunciato che acquisterà Yahoo? Allora, vuole fare concorrenza, vuol far diventare questa nuova entità un player importante nel mondo della pubblicità online, cercando di fare concorrenza a Google e Facebook, che sono rispettivamente numero 1 e numero 2 nella raccolta pubblicitaria online, e che tra l'altro i dati trimestrali di questa settimana dimostrano essere in ottima salute da questo punto di vista. Pensate che queste due società riescono a raccogliere in un solo trimestre assieme 28 miliardi in pubblicità online digitale, con una crescita impressionante sia per Google ma soprattutto per Facebook della pubblicità su smartphone, che vale per Facebook l'84%. Sicuramente queste società dimostrano di essere state capaci di interpretare questa nuova era di internet. Quindi quello della pubblicità è il terreno su cui investe Verizon. Va detto che nonostante la crisi di questi ultimi 15-20 anni, Yahoo è ancora oggi la quinta destinazione al mondo per traffico e ha circa 1 miliardo di utenti. Ci sono ovviamente altre curiosità che tornano ad emergere in questi casi. Quando c'è una notizia così importante si raccontano molte, molte storie. Ne racconto alcune che riguardano soprattutto il valore delle compravendite che coinvolgono che hanno visto coinvolta Yahoo, come ha scritto Biagio Simonetta sul Sole 24 Ore online questa settimana, e che riguardano anche il rapporto con Google. Allora, siamo nel marzo del 1998. Larry Page e Sergey Brin, i due fondatori di Google, erano ancora ricercatori a Stanford, all'Università di Stanford, e avevano già sviluppato il brevetto alla base di PageRank, che poi è stata la tecnologia che ha fatto la fortuna di Google. Allora, si narra che Brin e Page in quel periodo fossero abbastanza allettati dall'idea di vendere il loro brevetto, non erano tanto interessati a crearci sopra un'azienda. quindi prendere qualche soldo e continuare gli studi a Stanford. Così, dopo alcune settimane di approcci, arrivarono a trattare con Yahoo, che in quegli anni era leader indiscusso delle ricerche online. Allora, si narra che in un ristorante di Palo Alto, i due studenti e alcuni manager di Yahoo parlarono della cessione di questo brevetto. Page e Brin chiedevano, pensate, €1 milione. Certo, una cifra importante, però stiamo parlando di una cifra che anche allora per la Silicon Valley non era una esagerazione. Yahoo però rifiutò, quindi disse no, non ci interessa. Siamo convinti della nostra tecnologia. Negli anni successivi poi Google è stata fondata con questo brevetto utilizzato alla base della tecnologia. Cominciò ad ingrandirsi, a diventare sempre più grande. Nel 2002, quindi non tanti anni dopo, Google e Yahoo si ritrovarono e anche in quel caso ci fu una trattativa per la vendita di Google a Yahoo. Allora, pensate che Yahoo offrì $3 miliardi per comprarsi Google, perché avevano capito che stava crescendo. Brin e Page proposero invece $5 miliardi e non si arrivò a nessuna conclusione. E poi gli anni sono passati, dal 2004 si passa al 2008, c'è stata un'altra occasione andata male per Yahoo, perché Microsoft era pronta. A quel punto, diciamo che la posizione di Yahoo da compratore era cambiata a possibile preda di un'acquisizione. Microsoft era pronta nel 2008 a sborsare $44.6 miliardi per comprarsi Yahoo. Offerta rispedita al mittente, e adesso Yahoo si deve accontentare, tra virgolette, però si deve accontentare di meno di $5 miliardi, anche se va detto che da questa vendita rimangono fuori sia la partecipazione che Yahoo ha in Alibaba, il gigante dell'e-commerce cinese Alibaba, e anche Yahoo Japan, che è sempre stata un'entità a parte, sempre andata molto bene, Yahoo in Giappone. Allora, questa partecipazione in Alibaba e Yahoo Japan valgono assieme circa $40 miliardi e non fanno parte dell'acquisizione di Verizon. C'è chi dice, tra gli esperti che ho sentito anche questa settimana, che Yahoo abbia proposto negli anni ben poca innovazione, che quindi sia durato anche molti anni, molto più di quello che si poteva pensare qualche anno fa. Yahoo di fatto è un editore di contenuti che ha proposto molta poca tecnologia in un mondo dove invece l'uso della tecnologia è diventato preponderante e importante, soprattutto per far soldi su internet. Ed essendo un editore soffre come soffrono tutti gli editori al mondo. Ci sono quelli che riescono a interpretare meglio l'evoluzione digitale ed essere un po' più efficienti, ma di fatto nessuno ha interpretato la trasformazione di internet come hanno fatto invece Google e Facebook. Adesso alcune notizie in breve della settimana. Digital News. Però, al di là dei numeri interessanti e positivi della trimestrale di Facebook, altri dati interessanti riguardano il numero degli utenti, che tocca ora 1,71 miliardi, di cui 1,13 miliardi quelli che si collegano ogni giorno. A proposito di audience, WhatsApp e Messenger, che fanno parte dell'orbita di Facebook, hanno 1 miliardo di utenti mensili. Instagram, altra proprietà di Facebook, tocca quota 500 milioni. Digital News. In attesa che Flash venga definitivamente messo in archivio da Adobe, dalla prossima settimana anche Firefox comincerà a bloccare contenuti web non essenziali che utilizzano Flash sui siti internet. Già Chrome di Google e Microsoft Edge hanno da un po' di tempo attivato una, chiamiamola, gestione intelligente dei siti con contenuti Flash. Quindi, anche se ci sono ancora contenuti creati in Flash sul web, ormai molte delle animazioni sul web sono sviluppate in HTML5 e, diciamo, la scelta dei browser principali va verso questa direzione. Digital News. Per la prima volta BlackBerry lancia sul mercato un telefono con sistema operativo Android senza tastiera fisica. Disponibile anche in Italia dall'8 agosto a €339 con una power bank, cioè una batteria supplementare molto potente in dotazione. Il nuovo D-Tech 50 monta una versione personalizzata di Android 6 Marshmallow che è orientata alla sicurezza. Del resto, la storia di BlackBerry è fatta soprattutto sulla security, tanto che l'azienda dichiara che sia il telefono Android più sicuro al mondo. Digital News. Ora disponibile anche in Italia la funzione raccolta della famiglia. Il nome non è sicuramente eccezionale, è una nuova soluzione di Google che è copiata da altre che esistono già sul mercato, con la quale è possibile inserire nel gruppo famiglia fino a 6 account con i quali condividere gli acquisti, molto utile per autorizzare gli acquisti ad esempio dei figli, così si controlla quanti soldi spendono. È un sistema molto simile a quello di Apple in famiglia per le autorizzazioni appunto legate alle app. Digital News. Parliamo di mercato e-commerce e moda. La francese Showroom Privé ha avviato una trattativa per acquistare l'italiana Saldi Privati, che è controllata da Banzai. Decisione entro il 30 settembre. Dunque, a proposito di dati, di numeri, di novità che riguardano i mercati di cui ci occupiamo, relativi alle tecnologie di cui parliamo a 2024, ho qui davanti a me alcuni dati di Strategy Analytics che parlano della crescita del mercato degli smartphone molto contenuta. Nell'ultimo trimestre registrato, rilevato, parliamo di una crescita dell'1% annuale. E anche qui eravamo abituati a dati che crescevano sempre del 20%, del 15%, adesso la crescita è sicuramente rallentata, vuoi per il rallentamento dell'economia globale, vuoi perché sono oramai tantissime le persone che hanno uno smartphone e quindi anche nei paesi in via di sviluppo siamo quasi arrivati alla saturazione, quindi molto del mercato è un mercato di sostituzione. Ne parleremo tra poco, così come parleremo degli smartwatch. IDC ha pubblicato recentemente dei dati che sono relativi agli smartwatch, quindi agli orologi come l'Apple Watch, come altri orologi da indossare. Ci sono dati interessanti, stiamo parlando però di numeri che non hanno nulla a che vedere come dimensione di mercato a quelli degli smartphone. Però le dinamiche sono sicuramente interessanti. Parleremo anche tra poco di fintech con una novità che riguarda l'Italia. Ma veniamo adesso alle ultime vicende che riguardano i vari progetti per portare fibra ottica in giro per l'Italia. Allora, diciamo che ci sono sostanzialmente due mondi: il mondo finanziato dal pubblico, dallo Stato, con i bandi, con il primo bando che è stato lanciato quest'estate. E poi c'è il mondo dei privati, quindi del mercato, dove i privati vanno a fare le loro opere, le proprie infrastrutture. Allora, la prima notizia riguarda Enel Open Fiber, che ha completato l'acquisizione di MetroWeb. Si tratta in realtà di una fusione fra le due società, con capitali garantiti da Enel e Cassa Depositi e Prestiti. Quindi Enel Open Fiber si fonderà nel giro di qualche mese con MetroWeb. In questo modo si creerà un operatore neutrale che può far molto bene al mercato. Speriamo che si replichi il modello di MetroWeb, che piace molto, è piaciuto sempre molto agli operatori, al mercato. MetroWeb non fornisce il servizio finale né al consumatore né alle aziende, fa proprio l'infrastruttura, è un operatore di rete puro e questo piace molto al mercato. Speriamo che rimanga appunto un operatore neutrale, non venga introdotto qualche elemento non neutrale, che qualcuno si inventi di accendere la fibra e di fornire servizio. Sarebbe una stupidaggine a detta di molti esperti, quelli sani di mente. Poi ci sono anche esperti che hanno altre priorità nelle loro opere, però insomma, speriamo che si replichi questo modello che insomma ha dimostrato di essere vincente. Però gli investimenti per cablare le case e le aziende in 250 città da qui al 2021 salgono a 3,7 miliardi, grazie a questa fusione, per un totale di circa 9,5 milioni di unità abitative. Qui si parla di unità abitative, spero che siano comprese anche le aziende. Però Vodafone e Wind hanno già firmato accordi per utilizzare la rete di Enel Open Fiber Metroweb, poi vedremo se questa nuova società avrà un nome nuovo oppure prenderà il nome di una di queste due società fuse l'una con l'altra. Ma visto che questa rete, lo ha detto più volte Enel, sarà aperta a tutti e deve essere aperta a tutti, ci sono già altre adesioni. Ad esempio questa settimana Go Internet, che è un operatore locale umbro, ha firmato un accordo per usare questa rete in fibra ottica. Parallelamente a questa operazione c'è stata un'accelerazione dei progetti di TIM e Fastweb, che hanno da mesi lavorato insieme per portare fibra agli armadi di strada. Allora, questa settimana hanno annunciato una joint venture che sarà chiamata Fiber Flash, per cablare in fibra direttamente nelle case, quindi in Fiber to the Home, circa 3 milioni di abitazioni nei prossimi anni. Saluto Mario Mella, l'ingegner Mella, che è il Chief Technology Officer, quindi il responsabile delle tecnologie di Fastweb. Benvenuto a 2024. Grazie. Allora, in che cosa consiste questo accordo che avete annunciato assieme a TIM? Si tratta di un accordo ed è un piano di coinvestimento in partnership che prevede la realizzazione di un'infrastruttura giustamente definita in Fiber to the Home, ovvero che prevede di portare la fibra ottica all'interno delle singole unità abitative. È una joint venture che prevede la realizzazione di questa rete nelle principali 29 città del territorio nazionale e prevede di portare questa fibra ottica a 3 milioni di famiglie e imprese in queste città. I tempi di realizzazione sono quelli che dicevamo, cioè un piano che prevede di concludersi entro il 2020, però con uno sforzo che prevede che già entro il 2018 venga realizzata comunque buona parte del progetto, quindi un piano con un piuttosto aggressivo come velocità di realizzazione. Questa è una rete che sarà disponibile solo per Fastweb e TIM e quindi di conseguenza per i clienti Fastweb e TIM, o sarà aperta anche ad altri operatori? Beh, sicuramente Fastweb e TIM sono i due fruitori maggiori di questa rete, che poi ricordiamo è solo la rete secondaria, ovvero è la rete che va dall'armadio stradale fino all'interno dell'unità abitativa. I due operatori, sia Fastweb che TIM, dalla centrale fino all'armadio stradale invece si avvarranno della rete esistente. Però è una joint venture che è aperta anche a collaborazioni commerciali con chiunque, esattamente come disciplinato dall'Agcom. Sì, quindi diciamo che potrebbe un altro operatore chiedere accesso a questa rete. Sicuramente. Sì. Ecco, per completare quello che già lei anticipava, cioè voi avete fatto e annunciato non tanto tempo fa degli investimenti per portare la fibra ottica fino al cabinet e agli armadi di strada e poi da lì continuare con il doppino di rame, anche se poi quelli del marketing vi hanno stuzzicato e poi alla fine quelli del marketing dicono fibra, poi in realtà non è vera fibra. Ecco, in questo caso si tratta di una operazione per sostituire il rame, portare la fibra veramente fino a casa. Beh, in qualche modo potremmo dire che questo processo si è un po' accelerato, cioè si pensava che con il fiber to the cabinet, cioè quindi con la fibra fino all'armadio, poi il vecchio ramo, si potesse continuare ancora per anni. Diciamo che il piano di Fastweb non cambia, cioè il piano di portare la copertura ultra broadband al 50% della popolazione italiana non cambia. Quello che cambia è il mix. Prima si prevedeva di portare a 2 milioni direttamente la fibra ottica a casa e a 11 milioni al cabinet, adesso i 2 milioni diventano 5 milioni in fibra ottica, mentre al cabinet da 11 diventeranno 8. La somma comunque sono 13 milioni di famiglie e imprese. Quindi quello che è importante dire è che la tecnologia al cabinet comunque continua a rivestire un ruolo molto importante nella realizzazione delle reti ultra broadband in Italia. È una tecnologia su cui noi continuiamo a credere molto. Recentemente noi abbiamo introdotto questa nuova tecnologia che è l'Enhanced VDSL, che ci ha consentito di raddoppiare sostanzialmente la velocità dai 100 mega ai 200 mega, e quello che oltretutto noi stiamo continuando a lavorare sono su ulteriori tecnologie innovative che sono in grado anche di superare questo limite di 200 mega. Quindi intendo dire, non è che questo piano in qualche modo va a limitare quello che è l'utilizzo della tecnologia al cabine. Diciamo che è un piano che ci consente di avere una copertura in fibra fino a casa molto più ampia, stiamo parlando di 5 milioni complessivi a fine periodo, però è importante dire che la tecnologia al cabinet continua ad avere un ruolo importante ed è una tecnologia su cui continuiamo a investire perché crediamo assolutamente nelle sue potenzialità future. È importante dire che questa joint venture andrà a lavorare su queste 29 aree dove la rete al cabinet è già stata realizzata o è in corso di realizzazione, però con degli investimenti che sono completamente complementari a quello che è stato fatto, perché va a posare la fibra ottica in una porzione della rete dove oggi non c'è, quindi di fatto vengono salvaguardati completamente gli investimenti pregressi fino a questo momento. Sì. Senta, nelle altre decine e centinaia di città che comunque sono importanti, che tecnologie utilizzerete e immagino utilizzerete anche, non so in quali città, perché bisognerà poi vedere il piano dettagliato, ma anche la rete nascente gestita dallo Stato che verrà costruita nei prossimi anni grazie ai bandi che sono già stati lanciati quest'estate. Ma di sicuro comunque già il piano che abbiamo oggi approvato, che è quello di portare la rete ultra broadband al 50% del paese, significa portare questa infrastruttura ultra broadband in oltre 500 città, quindi un piano veramente, veramente ambizioso. Quello che oltretutto stiamo facendo è il progressivo potenziamento di questa copertura FTTC con questo Enhanced VDSL. Già oggi ben 24 città hanno già a disposizione questa tecnologia 200 mega e progressivamente lo porteremo a tutti gli altri, quindi devo dire che è un piano comunque ultra broadband estremamente consistente. Questo piano conferma di fatto che negli ultimi anni è accelerata la domanda dei consumatori, altrimenti non avreste fatto questo investimento, o almeno non avreste pianificato questo investimento che farete nei prossimi anni con TIM. Sicuramente la domanda è cresciuta, sono cambiate radicalmente le abitudini anche di utilizzo del servizio da parte dei clienti finali, e il fabbisogno di banda per singolo cliente è in continua crescita. Quindi oggi quello che si sta facendo è sicuramente un potenziamento molto forte dell'infrastruttura d'accesso, ma ricordiamoci anche che in parallelo anche tutte le dorsali a cui si appoggiano le reti d'accesso andranno in futuro adeguatamente potenziate per reggere servizi quali Netflix, quali comunque erogazioni di servizi video che oggi hanno un ruolo preponderante nell'utilizzo della banda di queste infrastrutture di rete. Sì, aggiungiamoci anche Infinity Cili, visto che sono servizi italiani, li citiamo nella lista. Giusto. Esatto. Sembra assolutamente giusto. Senta, un'ultima domanda sulla tecnologia. Voi parlate di capacità della rete di un gigabit, ma immagino, per dare un'idea, perché se parliamo di fibra fino a casa dell'utente, dipende da come la modulate e anche dalle tariffe che vengono applicate. Potreste dare anche 5G, 10 gigabit, 100 gigabit? O sto esagerando? È corretto, è assolutamente corretto, nel senso che l'infrastruttura così come viene realizzata su questi 3 milioni di case oggi consente di fornire almeno un gigabit. Poi è esclusivamente un tema legato agli apparati e ai modem che vengono installati a casa cliente. Di fatto su una fibra ottica la banda disponibile è infinita, è evidente che il costo in base alla quantità di banda cambia. Diciamo che per un segmento come quello consumer, iniziare già a parlare di gigabit al secondo, se soltanto pensiamo che non più di 10-15 anni fa parlavamo di kilobit, mi sembra che abbiamo fatto dei bei progressi. Non c'è dubbio, non c'è dubbio. E poi c'è chi si chiede che cosa ce ne faremo. Ecco, la risposta sta in questi ultimi 10 anni. Se una volta parlavamo di kilobit e oggi parliamo di decine di megabit e stiamo appunto parlando di gigabit, nel giro di pochi anni troveremo anche i servizi per sfruttare questa banda. Ma sicuramente, però soltanto un elemento evidenzio. Un tempo il consumo di internet a casa era legato a quell'unico PC che era collegato. Se noi oggi guardiamo all'interno di una realtà domestica quanti dispositivi sono collegati in parallelo alla rete e che richiedono fruizioni di servizi alla massima qualità in parallelo, se moltiplichiamo tutti questi elementi connessi allo stesso tempo a un'unica connessione, ci rendiamo conto che riempire centinaia di megabit si fa abbastanza in fretta. Molto bene, Mella, la ringrazio per essere stato con noi. A presto, buon lavoro. Piacere, grazie. Molto bravo e molto competente l'ingegner Mella, che è il CTO, quindi è il Chief Technology Officer, responsabile della tecnologia, dell'infrastruttura di Fastweb. Non c'è dubbio che l'accelerazione che c'è stata per questo accordo tra TIM e Fastweb, quindi un'accelerazione per andare oltre al Fiber to the Cabinet, quindi andare direttamente al Fiber to the Home, è stata determinata anche da quello che sta succedendo sul mercato, cioè la novità di cui abbiamo parlato poco fa, la fusione tra Enel e Metroweb, che ha un piano molto aggressivo per portare fibra ottica direttamente in case e appartamenti in tutta Italia. Quindi sono tutti dati positivi. Allora, oltre a tutto ciò, parallelamente a tutto ciò, come dicevamo prima, esiste il piano banda ultralarga del governo, per il quale è già stato lanciato un primo bando e siamo alla fase di prequalifica delle società che poseranno fibra ottica nelle zone cosiddette a fallimento di mercato, dove non vanno i privati, dove invece investe soldi lo Stato, e in quest'area stiamo parlando di oltre 7.000 comuni, quindi gli investimenti hanno come orizzonte temporale 2021-2022. Quindi abbiamo detto, da una parte grosse città, grossi centri dove c'è il mercato e lì ci vanno i privati, e poi lo Stato in una bella fetta del paese. E quindi poi giustamente molti mi scrivono e dicono, ma la mia zona, casa mia, perché poi uno dice vabbè, mi piace ascoltare il disegno globale, ma a casa mia non è facile saperlo. Allora, esiste un sito internet che abbiamo segnalato qualche puntata fa, dove appunto si può vedere cosa sta succedendo per quanto riguarda i piani del governo. Per quanto riguarda invece i piani degli operatori è un po' più complicato saperlo, perché gli operatori anche in termini competitivi tengono magari segreti i piani fino all'ultimo. Questo è 2024, continueremo tra poco a parlare di fintech e anche di una novità che ho visto alcune settimane fa. Bentornati, riprendiamo questa puntata di 2024. Io sono Enrico Pagliarini, il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Mi trovate anche su Facebook e su Twitter. Adesso ci occupiamo nuovamente di finanze e di tecnologia. Questa settimana Banca Sella ha annunciato che la propria app di pagamenti peer-to-peer verrà accettata da alcune decine di migliaia di esercizi commerciali che hanno in dotazione dei POS particolari, e ne parleremo tra poco. Saluto Doris Messina, che è la responsabile dell'area fintech in Banca Sella. Benvenuta 2024. Grazie. Partiamo proprio da questa parola. Fintech significa tutta la tecnologia, tutte le soluzioni tecnologiche al servizio della finanza, speriamo al servizio della finanza, perché poi in alcuni casi sono anche un fattore di distruzione di quello che sta succedendo, ma anche di creazione. Perché esiste una figura che è più che curioso, è interessante, all'interno di una banca che è sempre stata una banca molto attenta alla tecnologia, perché voi siete stati i primi a fornire servizi, io ricordo i primi siti di e-commerce. Esatto, nel 98. Se non ci fosse stata Banca Sera non esisteva in Italia l'e-commerce, quindi siete sempre stati attenti a questo, però avete una figura che si occupa solo di questo, di fintech. Sì, più che una figura, un'area intera, nel senso che fintech significa come cogliere le opportunità di quella che viene chiamata disruption digitale, quindi rivoluzione sostanzialmente portata dalla tecnologia, per rinnovare completamente i servizi bancari e finanziari, al di là che lo faccia una banca o non lo faccia una banca. Quindi il fatto di individuare comunque un settore che se ne occupa in modo specifico fa capire quanto per noi è rilevante questo fenomeno, che si sta diffondendo sostanzialmente a 360 gradi in tutti i settori del banking e della finanza classica. Ecco, a proposito di quanto è grande ed è forte questo fenomeno, quanto? Dacci un'idea, facci capire. È pervasivo perché riguarda tutti i settori, riguarda il settore dei pagamenti, che è stato il primo ad essere impattato, se vuoi anche proprio con l'e-commerce, ma riguarda anche il mondo del lending, e riguarda il mondo degli investimenti con i robo-advisor, riguarda qualsiasi settore, persino quello della consulenza classica, quindi persino quello del rapporto one-to-one, che viene messo in discussione proprio perché in realtà molto spesso le macchine possono fare, l'automazione può fare molto di quello che oggi fanno le persone. Noi pensiamo che in realtà il rapporto umano continuerà ad esistere, non viene messo in discussione, tanto più in Italia, dove i rapporti umani sono comunque un fattore davvero molto importante, però è davvero una rivoluzione grande, soprattutto portata dalle nuove generazioni che di banca non ne vogliono sapere. Sì, non è un tema che gli interessa. No. E devo dire che ci sono due, se io in questo momento fossi un ascoltatore della trasmissione, potrei dire: ma ancora parlate di fintech, che è un tema che a me piace molto e mi sembra molto importante, oppure nelle occasioni in cui parlo di automobili, uno potrebbe dire: ancora parlate di veicoli automatici, insomma veicoli connessi. Noto che in questi due settori, quello dell'automobile e quello della finanza, della tecnologia al servizio della finanza, ci siano degli investimenti colossali, perché ci si sta rendendo conto che nel giro di pochi anni cambierà tutto. Siamo sicuri? Cambierà molto sicuramente. Il mondo del fintech in realtà ha una lunga storia. Adesso viene denominato fintech, ma andando indietro nel tempo. Anche il bancomat era fintech. Bravissimo, anche il bancomat era oppure fintech. Oppure l'e-commerce, certo. Sì, noi sì. Abbiamo in ufficio la macchina Chubb degli anni 80, era fintech pure. Cos'era? Quello. Era l'antenato del bancomat, con delle schede perforate si poteva prelevare. Quindi sì, era già fintech. Era già fintech. Sì, sì, sì, certo. Fintech è stato l'e-commerce negli anni 90 e come evoluzione. Adesso c'è un effetto esponenziale. La differenza vera tra 10-15 anni fa e adesso è l'effetto esponenziale e quindi l'impatto che in realtà questo avrà sull'industria bancaria e finanziaria, da cui ci si aspetta veramente una profonda rivoluzione. Rivoluzione nei modelli di business, rivoluzione nelle modalità di relazione con il cliente. Allora, siamo nella situazione che o la si cavalca oppure la si subisce. Siamo ancora in tempo per non subirla, però bisogna accelerare più o meno tutti i cambiamenti. Sì, come ha detto un ospite a 2024 recentemente, o tu ti occupi della tecnologia o è la tecnologia che si occupa di te, però in molti casi non è piacevole. Dunque, l'occasione è anche buona questa settimana, perché voi avete annunciato una upgrade, un'evoluzione di un vostro servizio che si chiama Hype, H-Y-P-E, Hype, come l'hype in lingua inglese, che è un'applicazione che permette di fare un po' di cose, tra cui pagamenti tramite smartphone, giusto? Esatto. Hype è nata all'interno di Sella Lab, che è il primo acceleratore fintech d'Italia. È nata da un'idea di semplificazione dell'uso del denaro ed è nata insieme ad una startup che aveva più o meno la stessa idea. Abbiamo messo insieme, abbiamo fatto una squadra nuova composta da persone della startup e esperti nell'ambito dei sistemi di pagamento, e da questa è nata appunto l'idea di Hype. focalizzata totalmente sull'experience del cliente, quindi sulla semplificazione estrema dell'uso del denaro. La può usare solo un cliente di banca sella? Assolutamente no, lo può usare chiunque, indipendentemente dal fatto che abbia un conto corrente o meno, e certamente non di banca sella, quindi è universale da questo punto di vista. Allora, voi questa settimana avete annunciato la disponibilità di questo sistema di pagamento su 80.000 esercizi commerciali che hanno un normalissimo POS. Esatto. Ci arriviamo tra poco. Prima vorrei chiederti come funziona questa Hype, cosa si può fare. Insomma. Allora, Hype innanzitutto si apre in circa 10 minuti online attraverso un selfie. La prima volta? La prima volta? Sì, diciamo, la prima volta la apri in 10 minuti. Sì, poi, si apre in 10 minuti. Dopodiché, si apre in un secondo. In un secondo, sì, grazie per la precisazione. E, Hype consente sostanzialmente di avere immediatamente un conto di moneta elettronica collegato a un IBAN e una carta prepagata contactless, e con un'app si gestisce il tutto. Consente di trasferire denaro tra pari, consente di pagare appunto negli esercizi di cui parliamo dopo, e ha alcune funzioni molto carine, tra cui per esempio la sospensione dell'uso della carta. Quindi se io non mi sento serena, se non mi sento sicura, se sono in vacanza, se la lascio a casa, io posso in qualunque momento metterla in pausa o riattivarla, scegliere di mettere in pausa per esempio solo per gli acquisti online, ma consentirmi di prelevare tutto dall'app. Quindi Hype è una funzione che sostanzialmente smaterializza il denaro quotidiano. Certo, posso dire come tante altre app che ci sono, o è offensivo? No, non è offensivo, non riteniamo di essere gli unici in questo settore, anzi ben venga che ci sia concorrenza, perché aiuta a introdurre dei gesti che in questo momento non sono gesti comuni. Certamente abbiamo delle caratterizzazioni nostre che pensiamo siano soprattutto nell'experience, quindi nella semplicità di utilizzo del prodotto. Molto importante. Nonché sì, sì. Della carta, che comunque è una caratterizzazione nostra, la velocità di per esempio di apertura, perché essere a bordo e avere un conto, sostanzialmente un conto o qualcosa di simile a un conto in 10 minuti non è così comune. E dopodiché adesso c'è questa novità degli 80.000 esercizi in tutta Italia in cui si può pagare, per cui si crea anche una rete di accettazione piuttosto rilevante. Ecco, spieghiamo questo, perché apre uno scenario molto interessante, perché questo tipo di applicazioni permette pagamenti tra pari, quindi io posso darti, che ne so, 5 euro perché siamo andati a mangiare una pizza e magari ti dovevo 5 euro, te le posso dare con questa applicazione. Posso pagare in un esercizio commerciale che ha uno smartphone o un tablet. Ecco, l'annuncio che voi avete fatto è che grazie a Ingenico, Ingenico è una delle principali società che distribuiscono i POS, quando andate a pagare con una carta, col banco, ma con una carta di credito, se leggete la marca del POS molto spesso c'è questa marca. Che cosa succede a questo punto? Succede che io entro in negozio, acquisto qualcosa, apro la mia app, inserisco la cifra che voglio pagare, scelgo il negozio che in cui sono attraverso un sistema di geolocalizzazione, a questo punto pago con un tap pago e esce lo scontrino direttamente sul POS, nonché arriva una notifica sull'app dell'esercente, quindi del negoziante che in quel momento mi ha detto la cifra da pagare. Il negoziante deve fare qualche cosa o automaticamente per magia il suo POS è abilitato? È quasi per magia il suo POS sarà abilitato, poi deve saperlo, quindi qualche certo, informazione perché... è meglio dargliela. Sì, sì, sì. Ma da questi 80.000, che comunque sono insomma, sono già un buon numero di esercizi commerciali, che cosa manca per arrivare a... non so quanti milioni di POS ci sono in Italia, però ce ne sono più di 2-3 milioni, mi sembra di sì. Sicuramente sì. chiaramente l'estensione della rete di accettazione e anche del numero di utenti, di base utenti, gli hypers come li chiamiamo noi, è necessario per consentire di creare effettivamente una sorta di nuovo circuito. Quindi ovviamente i nostri programmi sono di estensione soprattutto della rete di accettazione. Sì. Una cosa che non abbiamo detto, il servizio a pagamento o è gratuito? Allora, il servizio come Hyper, sì, e quindi per l'applicazione consumer, è totalmente gratuita. E per quanto riguarda i pagamenti, in questo momento è totalmente gratuito anche per l'esercente, quindi non ci sono commissioni di transazione, sarà certamente gratuito in futuro anche per i micropagamenti, quindi al di sotto di determinate cifre, proprio perché pensiamo che in realtà la smaterializzazione del denaro passi dalle cifre piccole, dal caffè, dal giornale, dai piccoli acquisti. Ecco, quindi questo è un altro dato interessante. Visto che è una cosa che spesso i negozianti contestano delle carte di credito, anche del bancomat, anche se in realtà sul bancomat non hanno più giustificazioni perché le commissioni sono molto basse, possiamo immaginare un futuro, ma molto vicino, in cui i micropagamenti intesi come fino a 5 euro. Perfetto. Comunque, o al massimo poche decine, vediamo insomma l'evoluzione, sì, anche sì, di questo modo, siano gratuiti per tutti? Assolutamente, quindi, sì, è uno scenario realistico, è uno scenario verso cui probabilmente si andrà, ed è anche molto positivo, se vogliamo, per il paese. Certo, quindi il fruttivendolo e anche il panettiere non avranno più scuse. No. Cioè di dire, ma c'ho la commissione. Avranno solo vantaggi. Certo. Avranno solo vantaggi. Dunque, un problema, e vediamo come si può risolvere questo problema. Se io ho in tasca 10 euro, posso darli a chiunque, tutti riescono a prenderli in mano e se li mettono in tasca. Se io ho un'applicazione, se tu hai la stessa applicazione, io ti posso dare questi 10 certo. euro. Se tu hai invece l'applicazione di diversa marca, non posso darteli. In questo momento è così, diciamo, è quella che si chiama interoperabilità tra i sistemi. Cioè non esiste. Che non esiste. Ognuno ogni soggetto si sta facendo il proprio circuito proprietario. In futuro ci sarà un'evoluzione importante che è un'evoluzione normativa, entra in vigore nel 2018 e che comunque riguarda gli instant payments, quindi la possibilità di avere una directory generale e complessiva a cui tutte le banche dovranno comunque collegarsi, che consentirà di creare in automatico questa interoperabilità. Quindi diciamo che ben venga che si creino questi circuiti proprietari, dal 2018 in poi si avrà un'evoluzione comunque di interconnessione tra i mondi. Quindi tutti i sistemi di pagamento peer-to-peer, di questi, sì, insomma, tutte queste applicazioni che sono di derivazione bancaria dovranno parlarsi tra di loro? Si parleranno tra di loro, esatto. Perfetto. Esatto, per legge, e quindi diciamo che questo fenomeno verrà ovviamente amplificato. Quindi questa è una buona notizia, la diciamo anche a quelli che spesso contestano quello che succede in Europa. Grazie a una direttiva europea succederà questo. È impensabile invece che si crei, nasca una forma di interoperabilità, uno standard di mercato? È pensabile che si creino degli accordi tra i circuiti più grandi che si stanno in questo momento venendo a creare. Questo è pensabile e auspicabile. Ma ne state già parlando o poco? No, in questo momento non ne stiamo parlando, ma sicuramente è un fenomeno che a breve si verificherà. Sempre a proposito di concorrenza tra circuiti, come fa un sistema, un servizio come il vostro, o comunque un servizio italiano, a affermarsi sul mercato di fronte a circuiti internazionali che ancora non ci sono, ma che potrebbero arrivare? Penso Apple Pay, Samsung Pay o comunque altri, se domattina WhatsApp si mette a fare pagamenti peer-to-peer, certo, è un problema. Chiaramente sono dei giganti con cui noi dobbiamo pensare di competere. Sicuramente hanno delle potenzialità gigantesche. Fino a questo momento le esperienze che si sono verificate, comprese quelle che hai citato tu di Apple Pay, non hanno avuto questi fenomeni pazzeschi. È anche vero che l'Italia è un paese un po' particolare, quindi dove l'inglese si conosce fino a un certo punto, insomma ci sono dei fenomeni locali che fanno ben sperare che in realtà si possano affermare più circuiti e che situazioni come quella di WhatsApp possano favorire piuttosto che non diventare totalizzanti rispetto al fenomeno dei pagamenti peer-to-peer. Sì, sì, sì. Beh, in effetti Google ci ha provato più volte con vari sistemi non ha mai avuto grande successo. No, infatti. Quindi sì, non è detto che l'essere... Le carte di credito potrebbero fare... Perché se Visa e Mastercard si mettessero d'accordo a fare un... non dico un unico circuito di pagamenti peer-to-peer con l'app, però due servizi che magari si parlano tra di loro, certo, diciamo che diventano dei player importanti. Diventano dei player importanti. Non so se ce li hanno già in alcuni paesi. Sicuramente ci stanno lavorando, così come ci stanno lavorando tutti quei soggetti che hanno grandi volumi di traffico e di dati e quindi stanno vedendo nel mondo dei pagamenti comunque un settore ad alta marginalità in cui buttarsi. E ci stanno certamente lavorando, a mio parere comunque si tratta di soggetti che possono affiancare, non sostituire, cioè io non vedo in futuro un leader che prenderà tutto questo mercato, vedo tanti circuiti che si affermeranno in modo maggiore o minore e potenzialmente anche in modalità geolocalizzata, quindi ci possono essere delle aree geografiche in cui è presente più un circuito piuttosto che un altro. Certo, immagino che di fronte alla prospettiva di interoperabilità tra sistemi, a maggior ragione potrà esserci una chance per dei player locali. Certo, probabilmente non tantissimi, alcuni player, però proprio per l'interoperabilità questo fenomeno potrebbe affermarsi, come dici tu. Quindi nei prossimi anni vedremo anche alcuni che scompariranno. Cioè oggi stanno entrando sul mercato tutti. Ma l'abbiamo visto nel tempo, l'abbiamo visto con l'e-commerce, l'abbiamo visto con il trading online, per citare gli ultimi 15 anni. Cioè è ovvio che inizialmente tutti si buttano, poi a un certo punto però la selezione naturale fa il suo corso. Certo. Quali sono le aree di sviluppo di questi sistemi più interessanti dal vostro punto di vista, oltre al pagamento? Perché adesso noi stiamo parlando di pagamenti anche perché è la cosa più facile da capire, certo, no? Certo. Io ti do pochi euro e tu me ne dai due. Ma diciamo i pagamenti sono l'entry level, nel senso che più o meno tutti devono pagare qualcosa. E i settori più interessanti in realtà sono quelli che vengono chiamati VAS, cioè servizi a valore aggiunto che si possono aggiungere ai pagamenti. Quindi servizi commerciali, servizi di suggerimenti commerciali, proposte che ne so, di scontistica, di couponing, deals, aspetti di questo genere. Creano comunque, avendo comunque noi molta relazione diretta con il cliente proprio attraverso il pagamento, ti crea la possibilità di dare dei servizi effettivamente più evoluti e più personalizzati. Oggi la personalizzazione è percepita come un valore importante. Se ci pensi, molta gente rinuncia alla privacy per avere dei servizi personalizzati, che solo 10 anni fa sembrava follia. Sì, sì, è vero. Anzi, molti rinunciano a una cosa che sta diventando sempre più importante, perché i nostri dati diventano sempre più importanti, però molti non ci fanno nemmeno caso. Pur per di avere pochissimi euro sono disponibili a dar di tutto. Tutto. Sì, sì, sì. Verissimo. Dunque, una cosa che non abbiamo ancora detto, ma che penso sia importante, parlare anche di giovani, ma di molto giovani. Di molto perché giovani. Voi avete in programma una evoluzione ulteriore del servizio. Abbiamo in programma un'evoluzione, nel senso che al di sotto dei 18 anni occorre la supervisione del genitore per poter avere in Italia questi prodotti e questi servizi. Di conseguenza, alla fine dell'estate lanceremo la versione appunto per i giovanissimi, dove appunto il ragazzo potrà avere i servizi, lo stesso servizio di Hype, la stessa applicazione, quindi la carta prepagata, un IBAN collegato, però sotto la supervisione del genitore. Che cosa intendete per supervisione? Cioè che tutte le volte che io, bambino... No, supervisione significa che l'apertura comunque deve avvenire in modo congiunto, ovviamente tutto per via telematica, tutto paperless assolutamente, e che ci sarà comunque un'informativa periodica al genitore delle spese fatte. Quindi il bambino comunque può andare tutti i giorni a comprare il gelato per i fatti propri, non è che sono davanti alla gelateria io bambino e per pagare il gelato devo aspettare l'autorizzazione del papà. Successivamente agli acquisti comunque viene data un'informativa al genitore. Sì, sì. E questi servizi a proposito di età sono di grande successo solo per i giovani? Sono interessati i giovani, ventenni, trentenni o no? Ma in realtà noi ci aspettavamo grande ritorno da parte dei giovani o giovanissimi, ma abbiamo visto che è un servizio che si affianca più che altro al tradizionale conto corrente da parte dei non così giovani, nel senso che tra i 30 e i 40 anni comunque è un servizio che piace molto, proprio perché il concetto di smaterializzazione del portafoglio, del denaro quotidiano, che è un'altra cosa rispetto al conto corrente, che rimane, ha un'altra funzione molto più strutturale. Sì, sì. Lo dite quanti sono i vostri clienti su Hype? No, non lo diciamo. Questo è un classico di tutte. Quello che i posso servizi. Dire è cresciamo a doppia cifra mese su mese, quindi comunque abbiamo una crescita in questo momento esponenziale che insomma ci fa ben sperare in numeri importanti. Android e iOS? E Windows Phone. Complimenti. Grazie. Perché non è recentemente... Non è comune. Sì, effettivamente diciamo che Windows Phone sono rimasti un po' lasciati all'angolo, e quindi tutti quelli che hanno questa attenzione vanno anche ringraziati. Bene, grazie di essere stata con noi. Grazie. Buon a te. Lavoro e immagino anche buon divertimento, perché in questo settore vedo che c'è molto... È un settore in fermento, divertentissimo, devo dire. In questo caso fare banca è un lavoro divertente, parecchio. A presto. Grazie. Dunque, sapete che io giro per fiere le più strane, le più particolari, in giro per il mondo, in giro per l'Italia, uno sono, quindi non posso essere in più luoghi contemporaneamente, non posso passare la settimana in giro per il mondo, però vado un po' in giro. Allora, ultimamente ho partecipato ad alcuni appuntamenti di SMAU in giro per l'Italia, e proprio perché si va in giro per l'Italia si scopre il bello degli inventori. Allora, adesso parliamo di un prodotto, di una idea di Biomeco, che ha realizzato una cosa che si chiama Cloud Water, che è una macchina che lava le mani usando pochissima acqua. È vero che è una tecnologia in un settore di cui ci occupiamo poco a 2024, ma mi sembra una buona idea, anche perché in giro per il mondo ho visto molto poco, e visto che l'acqua sta diventando un bene primario in alcune zone del mondo, ci sono proprio anche vere e proprie battaglie per il controllo delle acque. Beh, pensate, un prodotto del genere venduto anche per alcune aziende, ma anche in alcune parti del mondo, che valore può avere? Ne ho parlato con Giorgio Frattini, che è il direttore commerciale di Biomeco. Sentiamo come funziona questo sistema. È un progetto innovativo, naturalmente è una water saving solution, perché noi abbiamo lavorato molto sui consumi e sul risparmio in generale di quello che può produrre la macchina, e questa macchina è l'unica macchina al mondo che in un unico passaggio, cioè 5 fasi, ma un unico inserimento e disinserimento delle mani, in un ciclo di 64 secondi variabile, può portare alla pulizia e all'abbattimento della parte batterica fino al 95%. Allora, la macchina è molto semplice, c'è un buco, io infilo le mani in questo buco e comincia il lavaggio. Allora, come sono queste 5 fasi? 5 fasi sono: la prima fase naturalmente arriva l'acqua vaporizzata che bagna la mano, poi viene parte il detergente, la persona deve tranquillamente strofinare le mani come sotto un lavandino. Arriva, toglie questo sapone con l'acqua che arriva vaporizzata, riparte, finita questa prima fase, quindi lavaggio, detersione, poi di nuovo risciacquo, parte immediatamente un antibatterico che viene spruzzato in dose regolare. È un antibatterico di una nota azienda multinazionale farmaceutica con cui noi collaboriamo. Dopo parte la parte asciugatura, un phon con tempistica molto ben programmata, porta all'asciugatura perfetta della mano. A questo punto si estrae la mano senza sempre toccare nulla dall'oblò, e le mani sono perfettamente, è completato il ciclo, le mani perfettamente pulite, battericamente, importante, sono state abbattuti i batteri a livello fino al 95%. A questo punto uno potrebbe dire, vabbè, ma io ho già in azienda, perché immagino che il primo vostro cliente saranno le aziende che devono avere, che hanno personale che deve stare attento all'igiene delle mani, poi potremmo fare un discorso sul resto della popolazione che dovrebbe lavarsi le mani molto spesso, perché sono un portatore di batteri molto, molto facili. Però un'azienda potrebbe dire, ma io ho già il lavandino, ho già il sapone e ho già dei sistemi per asciugare le mani, perché dovrei comprare uno strumento di questo genere? Certo, allora la sostituzione del parco macchine, del parco esistente, quindi lavandini, asciugatori classici o dispenser, può avvenire gradualmente. Naturalmente il nostro è un discorso innanzitutto eco, quindi si va incontro all'ambiente, il risparmio dell'acqua è del 95%, abbiamo dimenticato all'inizio di dire questo. Il progetto, quella fase di consumo dell'acqua, l'erogazione viene fatta vaporizzata, tutto viene vaporizzato e il risparmio arriva al 95%. Quindi, allora, mi faccio un esempio, quando mi lavo le mani normalmente quanto acqua consumo e quanto ne consumate voi? Allora, noi consumiamo 50 ml d'acqua contro il litro e mezzo che è la media europea, ma si può arrivare anche a 3 litri con dei rubinetti non temporizzati. Dimentichiamo anche OMS nei progetti, nelle indicazioni di processi per corretta igiene delle mani, si può arrivare anche 2-3 minuti di lavaggio corretto delle mani, perché sono tante le fasi, bisogna incrociare le dita, pulire il palmo, strofinare, l'erogazione del sapone va distribuito equamente su tutta la parte. Quindi tutti lo fanno molto distrattamente, molto velocemente, anche io per primo, prima di affrontare, diventare un paranoico della pulizia delle mani. Prima di entrare in questa azienda. Anch'io molto, esatto, anch'io ero molto superficiale, mentre ricordiamoci che come lavarci i denti tutte le mattine, l'igiene nella bocca, che è un altro... Anzi, tre volte al giorno, volte, almeno. Quattro, esatto, anche cinque, chi in viaggio si... Lavare i denti è molto importante, la formazione di solito avviene in famiglia, è una cura dell'igiene personale, ma anche le mani, ce le dimentichiamo sempre, è la cosa più importante. Quindi il secondo veicolo, anzi il primo veicolo, è la nostra parte terminale con cui facciamo tutto. Certo, tocchiamo in giro, ci scambiamo le mani, i saluti. Senta, quali sono i vostri clienti primari? Allora, primario noi stiamo concentrandoci per adesso forse sui clienti che hanno più budget, che sono le aziende appunto... che possono essere farma o food, quindi chi lavora il cibo, chi lavora i farmaci in produzione. Loro in entrata, in stabilimento, devono produrre ai dipendenti che accedono ai materiali, al prodotto, devono accedere, fargli accedere in maniera pulita e certificata. Quindi queste, però ricordiamoci che loro fanno degli investimenti, ma gli investimenti anche, il nostro investimento ritorna molto rapidamente, perché appunto 95% di risparmio dell'acqua. L'acqua costa molto cara, soprattutto a livello industriale e soprattutto su grandi unità rapportata su un consumo annuo. Il 100% di risparmio dei paper, carta, ricordiamoci gli alberi, la carta non viene più consumata, non viene più smaltita, perché la carta va smaltita correttamente, quindi c'è un costo anche a livello di smaltimento. 33% di energia, che il nostro risparmio lo calcoliamo in base ad altri ventilatori tradizionali, il nostro è concentrato ed ha una funzione molto particolare, quindi può risparmiare fino al 33% di energia, molto importante anche l'energia, è un risparmio economico importante per un'azienda. L'ultimo passaggio di risparmio, il 70-80% sui consumabili, che sono soap, la parte sapone o antibatterico. Anche questi sono abbastanza costosi, ma noi li eroghiamo in maniera certa, misurata, e quindi non abbiamo spreco. Non troverà, la nostra macchina non produce assolutamente nessun effetto, come lei può vedere in autogrill, il sapone tutto per terra, la carta per terra, bagnato ovunque. La nostra banca non è, a parte la parte interna dove c'è l'oblò e c'è il lavandino, lei fuori non troverà mai neanche uno schizzo d'acqua. Quindi anche la pulizia, ci sarà un risparmio per l'azienda per pulire quegli ambienti, i nostri non si puliscono. A questo punto sono curioso, quanto costa? La macchina ha due versioni, un'industriale e una completamente personalizzabile. La prima costa 4.000 euro di listino, la seconda 5.000 euro. La differenza sono la parte sostanzialmente della tecnologia e la possibilità, e l'altra è una versione bianca, non personalizzabile, le altre sono tutte colorate, possiamo personalizzarle su esigenza del cliente, sia dal punto di vista scheda tecnica, quindi durata, tempi, e quindi il progetto poi segue l'esigenza del cliente. Dunque, prima di salutarci, alcuni numeri su smartwatch e smartphone. Allora, iniziamo dagli smartwatch, mercato molto piccolino. E tra l'altro un mercato che dopo un piccolo boom iniziale ha già cominciato a decrescere. Allora, secondo IDC, il mercato mondiale degli smartwatch ha registrato nell'ultimo trimestre, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, un calo del 32%. Sono stati consegnati nel secondo trimestre del 2016, pensate, solo 3,5 milioni di unità, quindi stiamo parlando effettivamente di un mercato molto piccolo. Dunque, il numero uno in questo mercato è Apple, che ha fatto un buon successo con l'Apple Watch, però rispetto allo scorso anno, in questo trimestre registrato, c'è stata praticamente una diminuzione di oltre la metà, meno 55%, e comunque Apple è il numero uno di questo mercato con una quota del 47%, con 1,6 milioni di prodotti venduti. Poi c'è Samsung con un 16% del mercato, Lenovo 9%, LG con l'8% e Garmin con il 4% del mercato. Poi tutti gli altri piccoli produttori, comunque produttori che hanno una quota di mercato molto più bassa. Passiamo invece ai telefoni, e qui stiamo parlando di un mercato sicuramente molto diverso, molto più interessante, con numeri incredibili. Nell'ultimo trimestre, nel Q2, quindi il secondo trimestre dell'anno registrato in questo caso da Strategy Analytics, sono stati consegnati 340 milioni di pezzi. Allora, il numero uno del mercato, con una quota che sale leggermente, è Samsung, che ha consegnato oltre 77 milioni di prodotti a una quota del 22,8%. Apple scivola all'11,9%, è il secondo produttore al mondo con iPhone che vendono un po' meno, anche perché molti aspettano le novità in arrivo a settembre. Ha consegnato poco più di 40 milioni di pezzi. Poi al numero 3 Huawei, che ha una quota di mercato sostanzialmente stabile, di poco superiore al 9%. Poi c'è stato un boom del 137% numero 4 nella classifica mondiale degli smartphone, la Oppo. Oppo è un produttore cinese che ha una quota di mercato del 5,3% a livello mondiale. E poi è scivolato un po' indietro Xiaomi, sempre cinese, 4,3%. Quindi diciamo che la classifica è fatta da una grossa azienda coreana come Samsung, poi Apple e poi solo cinesi, insomma, qui stiamo parlando dei primi 5 e arriviamo a una quota del 4,3%, tutti gli altri hanno quote inferiori. E con questo concludiamo questa puntata di 2024, concludiamo anche la nostra stagione, perché questa è l'ultima puntata della stagione, almeno in questa versione di un'ora. Dalla prossima settimana avremo uno spazio di mezz'ora con alcune repliche, sabato alle 14, domenica alle 13:30. Sarà tutto sempre disponibile in podcast, ma ecco una cosa importante, che ci saranno alcune repliche, ma la trasmissione sarà sempre presidiata, quindi se ci sono delle novità, delle notizie della settimana, saranno sicuramente inserite e commentate. Ci risentiamo la prossima settimana. Io sono Enrico Paglierini, il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it.